254. Stracottola bizzarra. Se avete put a caso un pezzo di magro di vitella del peso senza osso di grammi 700 a 800, steccatelo con grammi 100 di lardone, i cui lardelli grossi un dito avrete prima conditi con sale e pepe, e così anche la carne. Legatela onde stia raccolta e ponetela al fuoco mezzo coperta d'acqua con 2 foglie di salvia, una ciocca di ramerino e mezzo spicchio d'aglio. Se la carne molto frolla, metteteci meno acqua. Quando nel bollire sarà rimasta asciutta, fatele prender colore con un cucchiaino di farina. Aggiungete un pezzetto di burro, poi bagnatela con un ramaiuolo di brodo e con un dito di bicchiere di marsala. Passate il sugo senza spremerlo e versatelo sul pezzo della carne quando la mandate in tavola.